Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Storiacce di Raffaella Calandra. Il lavoro è esploso, dappertutto, non ce la fanno proprio fisicamente, poi già 110 fermate è tanto, il problema è a 150-140, poi non è che siamo tutti sbarbati di 20 anni, io ho 47 anni e io dopo il terzo giorno non ce la faccio più, cioè io vado a casa che sono stanco, ma il volume di lavoro è aumentato, sono meno stressato perché non bestemmio in mezzo alla strada con i camion della spazzatura, gli idioti, però io ho 150 fermate adesso. Ogni mattina Donato arriva nel magazzino, ritira le chiavi del furgone e carica pacchi. Ogni mattina, da quando è cominciato il lockdown, questo driver di Amazon carica centinaia di pacchi, più di ogni Black Friday, più di ogni Natale, e corre tra Milano e dintorni con un lunghissimo elenco di indirizzi, fino a 150 stop al giorno, come le chiamano in gergo. Loro, gli addetti al settore della logistica, da quando è cominciata l'emergenza e la chiusura dell'Italia, stanno lavorando molto, ma molto più di prima, per assicurare le forniture di cibo, medicinali, detersivi, ma anche in regioni come la Lombardia, per smistare tutti gli acquisti di ogni genere che dal nostro divano facciamo ancor di più. Ora però, e ancora più di prima, da questi magazzini, simbolo della nuova economia, si leva un grido d'allarme perché la salute di magazzinieri, driver, rider e oggi, ancor più di prima, la salute anche di tutti noi. I magazzini rischiano di essere un focolaio di trasmissione del virus. Un primo filtro è l'accesso. Nessuno può accedere all'azienda senza una verifica della temperatura, in questo modo. La regola di base all'interno è quella della distanza. Si parte dall'ingresso. Come raccontato dal collega del Sole 24 Ore Luca Orlando, all'interno dei magazzini, quelli in regola, molto è già cambiato in queste settimane, anche se basta un niente per allentare l'attenzione e far saltare le distanze. Lo stress della velocità, poi, insieme alla pressione per il tantissimo lavoro, certo non aiuta, ma non tutti sono Amazon o grandi nomi della logistica, dove le misure obbligatorie sono rispettate con precisione. Ed ecco che allora, in una corsa ai ribassi, potrebbero ulteriormente peggiorare quelle criticità già emerse in gran parte della filiera. Oltre all'interesse del mercato e del singolo lavoratore, c'è un interesse collettivo di tutela sanitaria. Perché ovviamente questi rider che ci consegnano le merci devono essere soggetti protetti a 360 gradi. La voce di Fabio Roia ora è tornata forte quasi quanto prima. Prima che il coronavirus entrasse nei polmoni anche del presidente della sezione misure di sorveglianza del Tribunale di Milano. Molto sta cambiando e dovrà cambiare in termini di sicurezza anche nel Palazzo di Giustizia, dove le misure sono state tardive, accusa. Ma molto è necessario che cambi davvero, a suo dire, proprio in questo settore della logistica, che è rete tra città e case e non può diventare una rete contagiata. Un timore il suo che poggia su quanto scoperto in tutto il comparto, dove spesso tra cooperative e subappalti si trovano lavoratori senza tutela, spesso stranieri, spesso sottopagati, spesso ricattati, come già più inchieste hanno fatto emergere. Noi abbiamo ancora purtroppo centinaia di morti al giorno e sembra che siamo quasi diventati indifferenti a questo dato. Io non lo sono e ho difficoltà, come dire, a comprendere quello che è successo a me in un contesto che obiettivamente sta trasformando tutti noi e trasformerà la società. Gli ultimi atti prima che questa onda di coronavirus travolgesse tutto, aveva disposto la fine in anticipo del commissariamento della multinazionale della logistica CEVA dopo 9 mesi. Questo caso aveva aperto il tema di quello che stava succedendo all'interno del mondo, dell'intero comparto della logistica, laddove erano emersi casi anche di sfruttamento del lavoro. Io credo che laddove ci sono situazioni di fragilità personali o sociali, e questo deriva obiettivamente dalla situazione economica determinata dalla emergenza sanitaria, ci sia una maggiorazione di offerta di forza lavoro rispetto alla domanda. si è verificato che non solo in quella situazione, ma direi in quasi tutte le situazioni di settori deboli, poco controllati, come sono i settori della logistica, che prevedono una filiera, perché dal grande committente noi passiamo per società che operano logistica, che a loro volta si avvalgono di società cooperative con un carosello infinito, dove in quel caso alla fine si è arrivati alla scoperta di fenomeni di caporalato, cioè di sfruttamento di lavoratori fragili. Se nella normalità si è verificato e si è accertato questo tipo di fenomeno, che è un fenomeno abbastanza esteso, credo che oggi, e penso, non so, alle persone che fanno consegne, si possono trovare ulteriori fenomeni di sfruttamento delle persone più fragili. Normalmente queste persone più fragili sono quelli che non hanno alternative di lavoro e quindi magari sono cittadini extracomunitari anche irregolari, questo fra l'altro costituirebbe un reato. Quello che era emerso dalle indagini fatte e anche dal tavolo aperto in prefettura, anche proprio su suo input, era proprio quello dell'esistenza di un problema diffuso nell'intera filiera. Sarebbe importante che le sentinelle del territorio vigilassero, per esempio le organizzazioni sindacali, che non sempre agiscono in questo modo, oppure per esempio che fossero implementati il numero degli ispettori del lavoro presenti sul territorio. Credo di ricordare che in un incontro di prefettura si fosse verificato l'assenza di 300 ispettori nel territorio lombardo. Ci sono anche le garanzie per evitare anche un ritorno dell'epidemia. Assolutamente sì, perché è ovvio che a questo punto, oltre all'interesse del mercato e del singolo lavoratore, c'è un interesse collettivo di tutela sanitaria. In questo momento la necessità potrebbe essere quella di colmare le lacune nel numero di ispettori, perché per la logistica vadano a verificare doppiamente le condizioni di lavoro? Io direi di sì, anche di una forte presenza di sensibilizzazione delle organizzazioni sindacali. Credo che sia uno sforzo necessario ma assolutamente utile, perché portato non solo in un'ottica di legalità ma a questo punto in un'ottica di tutela della salute collettiva. Aumenta il lavoro, ma per garantire la sicurezza vanno scaglionati gli ingressi nei magazzini e assunte anche molte altre misure. E tra queste opposte esigenze allora vanno trovati nuovi equilibri, a partire innanzitutto dalla conoscenza dei numeri dei possibili contagiati. Difficile senza tamponi. E allora CGIL, CISL, UIL e Lombardia hanno diffuso un questionario ai delegati per avere prime informazioni necessarie, perché questi luoghi di lavoro, avverte Luca Stanzione della FILT CGIL regionale, non possono diventare centrali di contagio. Oggi abbiamo un problema in più, perché Regione Lombardia ha liberalizzato l'e-commerce, a differenza di quanto invece i decreti del governo hanno fatto nei giorni scorsi. Questa cosa intasa i magazzini di ordini, non consente a quei lavoratori di rispettare il metro di distanza, ovvero rischiamo che la fase 2 da quel punto di vista possa essere più rischiosa della fase 1. A voi risultano due vittime? Queste due vittime ci risultano, ma ci risultano una quantità di persone malate. Quali possono essere, quali devono essere anche i controlli necessari? Intanto ci vuole la verifica che i dispositivi di protezione individuale ci siano ovunque. È una verifica scaricata sulle prefetture e sulle ATS, in una condizione in cui le prefetture e le ATS oggettivamente stanno facendo tutto il possibile con le persone che hanno. E poi bisogna intervenire dicendo che quei magazzini vanno alleggeriti. Bisogna per esempio spalmare gli orari di lavoro, fare più turni in modo tale da diminuire la convivenza fra le persone. Oggi la sicurezza sul lavoro e nello specifico come si fronteggia la diffusione del virus diventa l'obiettivo numero uno da andare a verificare nei luoghi di lavoro, altrimenti i luoghi di lavoro sono luoghi in cui si riproduce il virus. E nel momento in cui è sempre più chiaro come tutto sia interconnesso e che quindi la salute di tutti passi attraverso il rispetto delle norme di ogni singolo tassello del nostro mondo, sarebbe forse davvero importante, come sentiremo nella seconda parte, un patto tra aziende e clienti a tutti i livelli perché i prezzi e i costi fossero tali da garantire innanzitutto le necessarie misure di sicurezza. In questi due mesi di lockdown, ancor di più nelle lunghe giornate casalinghe, abbiamo comprato online, innanzitutto per la spesa, ma non solo. E le giornate di lavoro di Donato Pignatiello, driver per Amazon, ma anche referente sindacale, come le giornate dei suoi colleghi nei magazzini, come quelle dei rider che hanno iniziato a consegnare con le loro biciclette di tutto, sono diventate ancora più intense e lunghe. I canali di Amazon si sono intasati per tutta la gente che era in casa, quindi il nostro lavoro è andato contro la sicurezza, perché i volumi si sono aumentati. Ogni giorno ci vengono dati questi tipi, la mascherina, il guanto e il gel per lavarci le mani. Le distanze di sicurezza all'interno degli impianti, sì e no, in alcuni impianti non si riesce a rispettare, perché come le ripeto, se i volumi aumentano, la frenesia all'interno della station è più alta, quindi paradossalmente se aumenta il lavoro non puoi distanziare le persone, anzi le ammassi. Concretamente significa che ciascuno di voi che va a prendere la merce e poi la consegna, significa che entra più spesso in questi magazzini e che ci siete più persone contemporaneamente nei magazzini, però ci dovrebbero essere delle indicazioni per poter far rispettare le distanze e anche i flussi, no? Laddove i comitati, laddove i protocolli vengono fatti rispettare, laddove c'è una sindacalizzazione che permette ciò, sì, laddove non c'è la sindacalizzazione, chi è che controlla? Lei sta dicendo di aver visto realtà dove queste misure sono rispettate e altre realtà, quindi altri magazzini, dove non vengono rispettati? Sì, certo, sì, sì, sì. A volte anche inconsciamente non ci si rende conto, magari solo per andare a ritirare un mazzo di chiavi, perché per dire la mattina ci si faranno ritirare le chiavi dei furgoni, però ci andiamo in 50. Ma magari anche inconsciamente siamo tutti 50 colleghi, non ti accorgi che in quel momento questi 50 siamo ammassati. I magazzini dove andate a rifornire la merce sono un po' cambiati dall'inizio dell'emergenza? L'Amazon nei suoi impianti si è attrezzata per ciò. Dopo se i meccanismi, diciamo, la dinamica del lavoro, poi comunque devi comunque ridurre i flussi, distanziare le persone, ma non lo può fare perché materialmente gli è aumentato il lavoro. Poi dopo a chi si attiene, ti fa la scansione della febbre, c'è l'omino che il preposto che ti cerca di dare le distanze, quello c'è, ma quello è il minimo che possono fare. Però dopo se poi aumenti il lavoro mi cadi da un'altra parte. Quindi cioè, sì, comunque io le ripeto, dentro Amazon vengono rispettate la maggior parte delle norme imposte dal protocollo e dal buon senso. Lei ha detto ho visto con i miei occhi altre cose, cioè ci facciamo un po' capire, in altre realtà ha visto situazioni diverse? Certo, ma dipende sempre dal tipo di lavoro che hai di fronte, se è onesto, intellettualmente corretto, se non so, scusi, cioè, tutto dipende da quello, perché c'è chi ha fatto profitto da questo. Beh, Amazon ha fatto profitto, però tutela tutti. E quanto è aumentato? Mi faccio un'idea di quanti carichi al giorno, oppure di quanta merce al giorno? Da me si sono dentro la fiera da 4 anni, noi superavamo i 120 stop nei periodi natalizio, nelle promozioni del Black Friday, quindi la settimana pre o dopo, insomma. Adesso è un mese e mezzo che si fanno 140-150 stop, ci sono delle punte che non abbiamo visto neanche nei tempi migliori di anno, cioè proprio è esplosa. Lei dice, se ho capito bene, una media di 150 pacchi a conducente? Lo stop è proprio fisicamente quante fermate faccio, poi magari da un cliente porto 10 pacchi, ci sono anche persone che portano giù 250 pacchi. Quindi una media di 150 ordini che gestite? Ci sono anche furgoni da 250 pacchi all'interno, non sarebbe stato così, è ovvio, la gente in casa non può uscire, compra. E poi loro si sono nascosti dietro al fatto che, non essendoci il traffico, perché essendo un algoritmo che regola i nostri flussi, l'algoritmo più lavora fluido e più consigli di mezzi, quindi adesso, non essendoci traffico, hanno riempito di consegne le nostre rotte. In giro nelle città deserte, col sottofondo solo delle ambulanze, con tempi da rispettare e decine di ordini da consegnare. Come nel drammatico film di Ken Loach, Sorry, We Missed You, che vi confesso è stato anche l'ultimo che ho visto al cinema prima che tutto cambiasse. Ma se Amazon è un colosso mondiale, sotto l'attenzione collettiva non è ovunque così, ed è per questo che allora serve un cambio di passo, come propone proprio una grande azienda della logistica, una multinazionale che, dopo essere passata attraverso il commissariamento in Italia per caporalato, ora lancia la proposta di un patto per la legalità, ma anche per la salute collettiva. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di Storiacce. Alessandro, non parti? Eh no che non parto. Sto aspettando che suoni l'allarme di casa, metterà in fuga due ladri. Guarda, due ladri! Come facevi a saperlo? Io guardo avanti, per questo ho scelto Unipol 6. sono i numeri uno nell'assicurazione danni e nell'innovazione, come Unibox Casa, che ti protegge da furti, incendi e allagamenti e controlli tutto con l'app. Scegli il futuro. Unipolsai, sempre un passo avanti. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo. Fai subito un preventivo su unipolsai.it. Storiacce. È una cosa nuova, strana, devastante. È un virus che dà effetti molto ma molto forti, non solo sul piano della debilitazione fisica ma anche sul piano psicologico. Io fortunatamente non sono andato in terapia intensiva, però ho avuto seri problemi di respirazione e di ossigenazione, però dobbiamo dire che è passato. Io ho ripreso il lavoro anche per farmi aiutare dal pensare ad altro e quindi da scacciare un po' dalla mia testa il saturimetro, il termometro, l'apparecchio della pressione. Ora che cerca di distaccarsi da termometro e saturimetro, compagni nella disavventura del coronavirus, il giudice Fabio Roia è ritornato a lavorare e a riprendere le questioni che, come presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale, stava affrontando prima che l'epidemia travolgesse tutto. E una delle questioni che più lo aveva impegnato era stato il commissariamento per la prima volta di una multinazionale della logistica, Ceva Italia. All'origine i rapporti con il consorzio Premium Net, che era tra i fornitori, al cui interno sono stati trovati lavoratori sottopagati, costretti a straordinari, con contratti che portavano a paesi dell'est e con condizioni appunto considerate dalla procura da caporalato. Ma questo caso, come avete sentito già nella prima parte di Storiacce, aveva portato alla luce le ombre dell'intero comparto, quel mondo di pacchi, magazzini, consegne, regole rigide e cooperative precarie che possono facilmente far precipitare, come nel crudo film di Ken Loach, Sorry, We Missed You, le vite degli addetti in un baratro di disperazione. Seguono ogni pacco, te l'ho detto. Anche se lo metti nella rimessa in giardino, sanno dov'è. Questo decide chi vive e chi muore. Lo ritira per il signor Campbell? No, meglio di no. Mi pagano solo se consegno. Non pensavo fosse così difficile. Di sicuro la logistica ha tenuto in piedi l'Italia in questi mesi di blocco, garantendo cibo e farmaci, e in Lombardia anche tutto il resto, anche se poi il TAR ha accolto la richiesta dei sindacati di un'immediata interruzione della vendita di ciò che non è primario. Di sicuro anche nel mondo che verrà la logistica si conferma centrale, e allora assumono tutt'altro peso e un valore anche sanitario le inchieste aperte dalla Procura di Milano, oltre al tavolo in prefettura da cui erano emerse richieste precise per i ministeri elencate dal presidente delle misure di prevenzione Fabio Roia. Ceva, rientrando in un assetto di legalità, ha dovuto aumentare i costi di circa il 20% dei servizi offerti andando fuori mercato, perché evidentemente c'erano dei competitor che offrivano dei costi a questo punto in situazioni che io ritengo non di legalità, che potevano offrire alle grandi committenze delle prestazioni per un 20% inferiore. Quindi allora si stava lavorando, come diceva lei, con il prefetto per un problema che è però un problema nazionale, che era da portare all'attenzione e dei ministri competenti. Poi questo è un tema da riprendere. Ed infatti questo è un fronte su cui la Procura di Milano ancora indaga, cioè il paradosso che alla fine un'azienda che era tornata all'interno della legalità si fosse ritrovata ai margini del mercato. Poi le cose stanno cambiando e migliorando anche per Ceba, però in qualche modo questo non chiama in causa anche delle responsabilità anche dei clienti? Assolutamente. Assolutamente sì, difatti questo era il tema su cui noi stavamo ragionando. È chiaro che se c'è in un mercato, io trovo, faccio un esempio, un Rolex che costa 100 euro, quando il prezzo normale del Rolex va da 1000 euro in su, mi devo porre il problema necessariamente del perché questo Rolex costa 100 euro. E quindi io devo capire cosa c'è dietro a quell'offerta. Questo però rientra, come dire, in un'economia di legalità che comporta una visione, un'analisi dei rapporti con i terzi che prescinda esclusivamente dal dato economico. Certamente è un tema che le aziende si devono porre, quello dei costi della legalità che devono essere sopportati e che devono in qualche modo scalfire o attenuare quei margini di profitto che sono necessari per acquisire dei parametri di legalità in tutta la filiera del settore. E raccogliendo proprio questo invito, è un'economia di legalità quella che lancia dai nostri microfoni l'amministratore delegato di CEVA Italia, Christophe Boustulier, arrivato un anno fa quando il caso giudiziario era già scoppiato e i rapporti con il consorzio incriminato interrotti. Abbiamo rinnovato l'altro contratto con Messaggeri Libri e adesso con Mondadori, quello vuol dire che le 700 persone che lavorano per noi a Stradella saranno con noi ancora per anni, e per me quello è anche molto molto importante. Adesso c'è il nuovo CEVA. Siete passati dalla fine in anticipo del commissariamento all'emergenza appunto coronavirus. Siamo molto compliant, non è io che lo dico, è il giudice Roia, è l'amministrato giudiziario. Al mercato un segnale forte che in 9 mesi un'azienda come noi, che è leader in Italia, può cambiare veloce e che il settore può anche cambiare veloce per fermarci di sfruttare le persone, perché noi siamo arrivati dopo questo problema di premium net. Sì, certo. E in qualche mese abbiamo detto ok, non siamo bene, dobbiamo cambiare, abbiamo cambiato tutto. L'importante è anche che tutta la catena lo capisce, perché se noi l'abbiamo fatto, tutti devono farlo, e il committente, uno che è il cliente, deve capire che il mondo va a cambiare e i costi vanno a essere un po' più alti. Ma alla fine il committente, il cliente di CEVA o il cliente di altri competitori va a pagare un po' di più, ma sarà sicuro che la compliance sarà qua e che le persone saranno pagate bene. E perché lavoriamo con la logistica, lavoriamo anche con Finindustria, lavoriamo con il tribunale e con il prefetto per fare un patto di legalità. Per noi la prima cosa è di proteggere le persone, le nostre persone. Siamo una città di persone. Questa può essere anche una fase invece di svolta per far cambiare in meglio l'intero comparto della logistica. Ci sono due cose che vanno a cambiare il mondo della logistica. Uno è la compliance, perché non si può più pagare le persone 15 euro all'ora invece di 22. È così che si fa in tanti aziende. E penso che il giudice dopo questa crisi va a continuare con il PM a lavorare sul patto di legalità per verificare che tutte le aziende di logistica sanno compliance. Penso che CEVA era l'inizio di campanello, come si dice, il campanello di allarme. Campanello di allarme per tutti noi. E perché in atto logistica io ho parlato per spiegare a tutti, o capiscono adesso che devono cambiare, o alla fine vanno ad avere problemi, perché non si può continuare così. Quello punto uno. E il secondo punto, che è la crisi del Covid-19, è lo stesso, perché io sono sicuro di una cosa: non andiamo a lavorare in un mese come prima. No, non è possibile. Allora dobbiamo cambiare i comportamenti al lavoro per dare la sicurezza ai nostri dipendenti, e quello ti fa una perdita di produttività di 6-10% minimum. Allora, so, i clienti sono pronti a pagare o no? Una sorta di patto tra aziende della logistica, clienti e destinatari finali? Ma giusto, perché se le persone non vanno a lavorare, scusa, ma se tu non dai a qualcuno che vieni a lavorare su un sito le condizioni di sicurezza, ma non viene. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. In regia Paolo Corleoni. Per riascoltare questa e tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Seguiteci e scriveteci anche con vostre segnalazioni e commenti sulla pagina Facebook di Storiacce o via mail. Ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account @RaffCalandra. A domenica prossima. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.